Capitolo 9. Il palio. Montagnana, estate 1420. Il tamburo cominciò a battere prima dell'alba. Marco lo sentì nel sonno, quel ritmo lento e profondo che saliva dal vallo come il battito di un cuore antico, e si svegliò di scatto con il cuore che già correva. Rimase un momento immobile nel buio della stanza, ascoltando. Poi sorrise, perché quel suono significava una cosa sola. Era il giorno del palio. Si alzò in fretta, si vestì nel buio con le mani abituate e prese dal ripiano accanto al letto il piccolo scudo di ferro. Lo tenne un momento nel palmo aperto, sentendo il peso familiare, i bordi consumati dal tempo e da troppe mani che lo avevano stretto. Pensò a Milo che lo aveva ricevuto dal padre Corrado in una notte silenziosa, davanti al fuoco quasi spento. Pensò a Pietro, che lo aveva portato sulle mura nelle notti di guardia. Pensò a Luca, che lo aveva stretto guardando le truppe straniere passare. Pensò ad Andrea, che lo aveva tenuto mentre la rocca degli alberi cresceva pietra su pietra. Pensò a suo padre, che glielo aveva messo in mano morendo con quella stessa semplicità silenziosa che sembrava essere il marchio di famiglia. Lo appese alla cintura e scese in strada. Montagnana era già sveglia. Le torce ardevano lungo i camminamenti delle mura, proiettando ombre lunghe sui vicoli di pietra. La gente usciva dalle case in abiti dai colori vivaci, chi con il gonfalone del proprio comune, chi con la fascia colorata al braccio che indicava la contrada di appartenenza. I bambini correvano tra le gambe degli adulti con quella libertà caotica che ha l'alba delle feste, e le voci si mescolavano nell'aria fresca della mattina come i fili di una tela ancora da tessere. Marco attraversò la piazza centrale e raggiunse il vallo, il grande spazio aperto che correva lungo le mura, dove tra poche ore i cavalli avrebbero corso. «Marco!» si voltò. Elena stava arrivando dalla direzione della porta orientale, il mantello rosso dei montagnanesi sulle spalle. «Sei già qui», disse lei, avvicinandosi. «Non hai dormito neanche tu?» «Ho dormito abbastanza. Bugiardo!» Si mise accanto a lui e guardò il vallo nella luce crescente dell'alba. «Sai chi corre per Castelbaldo quest'anno?» «Giovanni il Rosso», disse Marco. «È bravo, conosco il suo cavallo, un grigio veloce come il vento sull'Adige». Elena annuì pensierosa. Poi indicò con un cenno della testa il vallo che si riempiva lentamente di gente. «Il trisavolo Milo ha mai visto il palio?» chiese sottovoce. Marco ci pensò. Milo era morto nel 1298, quando il palio era ancora un'idea, nata dalla necessità di tenere viva la memoria di ciò che era accaduto, di trasformare il dolore della conquista e il coraggio della resistenza in qualcosa che potesse essere celebrato invece che solo pianto. «Non so se lo ha visto», disse Marco, «ma so che lo avrebbe capito, meglio di chiunque altro». Nelle ore che seguirono, Montagnana si trasformò. Arrivarono i rappresentanti di tutti e 10 i comuni, ciascuno con i propri colori e i propri simboli. Da Casale di Scodosia vennero i contadini con le vesti color rosso e verde. Da Castelbaldo arrivò una delegazione imponente, con gli armigeri in tenuta da parata che marciavano compatti con quel passo solido e cadenzato dei soldati abituati a difendere una posizione. Erano gli eredi di quei 400 uomini che Rinaldo da Castelbaldo aveva guidato in soccorso di Montagnana, e lo sapevano, e lo portavano nella schiena dritta e nella testa alta. Da Masi arrivarono i barcaioli con le giacche color acqua e il simbolo del fiume sul gonfalone. Da Megliadino, San Vitale e San Fidenzio vennero insieme, come sempre avevano fatto, con i colori diversi ma il passo uguale di chi divide la stessa pianura e gli stessi fossi e gli stessi silenzi. Da Merlara arrivò il vecchio sindaco con i due merli sullo stemma. Da Saletto vennero i mercanti con i tessuti colorati che sventolavano come bandiere improvvisate. Da Santa Margherita d'Adige arrivarono le donne con i fiori dell'Adige nei capelli. Da Urbana, infine, i monaci del convento con le loro vesti scure e i loro rotoli di pergamena sotto il braccio, come se anche in un giorno di festa non potessero fare a meno di portare con sé la memoria scritta del passato. 10 comuni, 10 storie, un'unica piazza. Marco li guardò arrivare uno a uno con qualcosa nel petto che non aveva un nome preciso, ma che assomigliava alla gratitudine. I 10 fantini erano già in sella, ciascuno con i colori del proprio comune, i cavalli irrequieti che battevano gli zoccoli sul terreno. Marco riconobbe il fantino di Montagnana, un giovane di nome Alessio, con le spalle larghe e le mani ferme, che teneva il cavallo con la calma sicura di chi sa aspettare il momento giusto. Pensò che il Trisavolo Milo avrebbe riconosciuto quella qualità. Era la stessa che aveva imparato nelle notti di guardia, la stessa che Bertone gli aveva insegnato senza saperlo, la stessa che si tramandava in quella terra come si tramandano i mestieri e le storie. La campana della torre suonò 3 volte. Il silenzio cadde sulla folla con la rapidità delle cose attese. Poi la campana suonò ancora, un colpo solo, secco e definitivo. I cavalli scattarono. Fu un momento di pura bellezza caotica. 10 animali e 10 uomini che diventavano una cosa sola con la terra sotto gli zoccoli e il vento contro le facce. La folla esplose in un boato che rimbalzò tra le mura antiche, come aveva rimbalzato il fragore delle battaglie di un tempo, ma diverso, pieno di vita invece che di morte. Marco gridò anche lui, senza accorgersene, con la voce che si perdeva nel coro di centinaia di altre voci. Vide il fantino di Castelbaldo prendere la testa dopo la prima curva. Vide il fantino di Montagnana recuperare terreno lungo il rettilineo delle mura occidentali, affiancando il grigio e poi superandolo di mezza lunghezza. Il fantino di Montagnana tagliò il traguardo per primo. Il boato fu tale che i piccioni sulle torri si alzarono in volo tutti insieme, una nuvola grigia che salì verso il cielo azzurro dell'estate come un'offerta silenziosa. Marco aveva le lacrime agli occhi e non se ne vergognava. Quando il drappo rosso fu consegnato al fantino vincitore e Alessio lo alzò sopra la testa con entrambe le mani, Marco strinse nel pugno il piccolo scudo di ferro. Lo stringeva come lo aveva stretto Milo quella notte davanti al fuoco quasi spento, come lo aveva stretto Pietro sulle mura nelle notti di guardia, come lo aveva stretto Luca guardando le truppe straniere passare, come lo aveva stretto Andrea mentre la rocca degli alberi cresceva, come lo aveva stretto suo padre guardando entrare i soldati veneziani. Ma adesso il gesto non era difesa, non era attesa, non era resistenza silenziosa nell'ombra. Era qualcosa di diverso e di più grande. Era memoria. «Milo», disse sottovoce, in mezzo alla folla festante, in mezzo ai colori e ai tamburi e alle voci dei 10 comuni che celebravano insieme la loro antica unità. «Hai visto?» Il vento salì dalle mura e gli scompigliò i capelli, tiepido e leggero, odorando di primavera e di erba nuova e di quella cosa indefinibile che è l'odore della terra che si ricorda di essere viva. Marco la prese come risposta. Più tardi, quando la festa era nel pieno, Marco salì sulla torre più alta della Rocca degli Alberi. Guardò il Montagnanese nella luce dorata della sera, i 10 comuni sparsi nella pianura, come gemme incastonate in una corona di acque e campi. Tirò fuori da sotto il mantello un foglio di pergamena e uno stilo. Cominciò a scrivere lentamente, con quella cura che si mette nelle cose destinate a durare. In quest'anno del Signore 1420, io Marco, figlio di Andrea, nipote di Luca, pronipote di Pietro, discendente di Milo, figlio del fabbro Corrado, scrivo ciò che so affinché chi verrà dopo possa sapere da dove viene. Vennero le fiamme e le mura bruciarono. Vennero i tiranni, e il popolo chinò la testa, ma non il cuore. Vennero le guerre, e le pesti, e le signorie, e i cambi di gonfalone sulle torri. E ogni volta, quando sembrava che tutto fosse perduto, Montagnana si alzò. I 10 comuni si alzarono. Come si alza il grano dopo la tempesta, come si alza l'acqua del fiume dopo la siccità. Non per miracolo, per memoria. Per la ostinata, testarda, bellissima memoria di chi sa da dove viene, e per questo sa dove andare. Il palio non è una corsa. Il palio è la risposta che diamo ogni anno alla domanda che la storia ci fa. Siete ancora voi? E noi rispondiamo, sì, siamo ancora noi. Finché ci sarà un cavallo pronto a correre e una bandiera pronta a trasventolare, la Skuldascia vivrà. Finché ci sarà una mano pronta a stringere uno scudo di ferro e una voce pronta a raccontare, Montagnana vivrà. Io lo scrivo. Voi lo ricordate. Marco di Montagnana. Piegò la pergamena con cura, la sigillò con la cera e la lasciò nella nicchia della torre dove i venti non arrivavano e la pietra proteggeva. Poi scese a festeggiare con la sua gente.